9 in punto. Buongiorno cari ascoltatori da Simone Spezia e benvenuti a 9 in punto. Oggi vi chiamiamo a raccolta, in particolare coloro che hanno votato il Movimento 5 Stelle, perché vogliamo capire un po', sondare qualche umore, capire che cosa ne pensate dell'ipotesi di dare una fiducia ad un governo Bersani. Un brevissimo punto politico di giornata ci indica come elemento centrale l'intervista che lo stesso Bersani rilascia al quotidiano La Repubblica, nella quale ipotizza che, come molto probabile tra l'altro anche banalmente per questioni istituzionali, che il Presidente della Repubblica gli dia l'incarico, visto che la maggioranza assoluta alla Camera c'è e la maggioranza relativa al Senato c'è, si presenti in Parlamento da incaricato e poi appunto cerchi di ottenere la fiducia sulla base di 7-8 punti programmatici fondamentali. Il dibattito è aperto all'interno del Movimento 5 Stelle. Lo abbiamo visto, si può vedere anche molto semplicemente andando a visitare il blog di Beppe Grillo, che ha pubblicato due post su questo tema, uno a firma dello stesso Beppe Grillo un paio di giorni fa e ieri a firma di Claudio Messora, un blogger anche lui vicino al movimento, contrario all'ipotesi di dare una fiducia appunto ad un eventuale governo Bersani e anzi ipotizzando un incarico a qualcuno del Movimento 5 Stelle. Due post che hanno raccolto giudizi contrastanti da parte degli utenti, di chi ha visitato il sito, di chi ha deciso di commentare. Poi bisogna vedere all'interno di chi ha deciso di commentare quanti sono aderenti al Movimento 5 Stelle e quanti non lo sono. Aspettiamo le vostre telefonate e i vostri tweet 800 24 00 24 per intervenire in diretta. Iniziate a chiamare quando volete, perché oggi insomma a tappeto vogliamo sentire più gente possibile. I vostri tweet con l'hashtag 9 in punto, scritto a lettere. C'è già qualcuno che ci scrive, Raul per esempio: se volevo un governo Bersani votavo PD, Grillo è il vero vincitore, fiducia subito ad un governo 5 Stelle. Giù dalla Torre ci scrive: fiducia ad un governo PD senza Bersani ma con Renzi. Ecco, poi c'è l'altro nodo naturalmente, Matteo Renzi. Oggi il Corriere della Sera, fatto in realtà già in parte smentito dallo stesso Matteo Renzi via Twitter, parla dell'ipotesi appunto che venga dato un incarico a Matteo Renzi e che appunto poi sia lui a provare a formare un governo e ad ottenere la fiducia del Movimento 5 Stelle, dei rappresentanti del Movimento 5 Stelle in Parlamento, 163 in tutto, tra Camera e Senato. Movimento 5 Stelle dunque ago della bilancia in questo momento. A proposito della posizione contraria all'accordo con il Partito Democratico, ieri abbiamo cercato Claudio Messora, il blogger appunto che ha scritto per il blog di Beppe Grillo, e ha preferito non intervenire, quindi aspettiamo, ripeto, le vostre telefonate anche per le opinioni contrarie. Intanto io saluto l'ormai famosissima Viola Tesi. Buongiorno. Buongiorno. Elettrice del Movimento 5 Stelle, autrice di una petizione online a Beppe Grillo che al momento, dato di questa mattina, ha raccolto 133.766 sostenitori sulla piattaforma change.org. Messora sul blog di Grillo dice un sito esterno a quello di Beppe Grillo, è un sito per le petizioni online che più o meno conoscono tutti, quindi insomma su quello non mi soffermerei. Ma l'accusa Messora di essere un'infiltrata, Viola Tesi, è un complotto? Sì, palesemente direi di sì, insomma. Pericolosissima infiltrata, non si sa di chi poi, di cosa. Del partito pirata. Che come tutti sappiamo si è presentato alle elezioni, no, quindi. Com'è nata questa cosa? Com'è nata questa cosa? Lei è una militante, ha partecipato alla vita attiva del Movimento 5 Stelle oppure no? No, io sono una semplice e umile elettrice del Movimento 5 Stelle. Fine. Cioè, nel senso, davvero molto semplicemente, con dietrologia, con politismi di estero, c'è proprio una No, non la paga Bilderberg, no? Si scherza, eh? No, si purtroppo scherza. No. Si scherza. Magari, come pagare, invece no. E come mai ha deciso di partire con questa cosa qua, con questa petizione su change.org? Ma perché ero preoccupata per il paese, mi sentivo un po' impotente, questa ennesima situazione incerta, in bilico. Io credo che il paese, tutti noi abbiamo bisogno di un governo stabile e di fare dei passi avanti, perché troppo tempo siamo in stallo. Sentiamo, iniziamo a sentire gli ascoltatori, appunto. 800 24 00 24 per intervenire in diretta. Francesco ci chiama da Bergamo, buongiorno. Buongiorno, grazie innanzitutto. La mia opinione è abbastanza semplice, nel senso che mi piacerebbe moltissimo, come credo tutti gli attivisti del Movimento 5 Stelle, che finalmente ci fosse un nostro governo. La vedo molto improbabile, vedo molto improbabile che sia il PD che il PDL accettino una un'ipotesi di questo genere. Quindi credo che per quanto sia difficile accettare certe cose, io per primo storco il naso pensando di dover accettare un governo Bersani piuttosto che Renzi, perché non credo che ci sia una grossa differenza, non credo che al Movimento 5 Stelle cambi se il governo è di Bersani o di Renzi. Però per poter realizzare i nostri punti credo ci voglia un governo, altrimenti torniamo alle urne e poi si ridiscute tutto. E se vogliamo essere veramente pesanti, molto di più di adesso, bisogna sicuramente cambiare qualche regola, tipo la legge elettorale, quindi bisogna avere un governo, bisogna lavorare. La mia ipotesi è quella di dire, di dare una fiducia con condizionale, cioè diamo una fiducia al governo che sarà di Bersani, sarà di Renzi, sarà quello che è, però te la diamo sulla base del nostro programma. Quindi noi vogliamo fare quei punti, sappi che quei punti li vogliamo realizzare e li vogliamo realizzare a tutti i costi per mantenere i nostri elettori, quindi discuteremo punto per punto le leggi che verranno presentate dal governo, discuteremo ogni ipotesi di lavoro, però la nostra fiducia al governo non vorrà dire che noi questa fiducia la manterremo per sempre. Potrete togliere. Lei dice fiducia finché si fanno le cose che diciamo noi o sulle quali siamo d'accordo e poi semmai la togliamo. Stefano ci chiama da Milano, buongiorno. Buongiorno. Prego. Mi sente? Prego. Grazie. Io sono un ex elettore del Partito Democratico, ho votato anche Walter Veltroni in passato. Queste ultime elezioni ho votato Movimento 5 Stelle semplicemente perché mi sono reso conto che ormai da 20 anni, dal 94, da che ne ho memoria, io sono abbastanza giovane, a parte la legge probabilmente sulle patenti a punti, io non ho mai visto veramente dei grandi cambiamenti, ma anche liberali in Italia. Ho votato il Movimento perché vorrei che qualcosa cambiasse e secondo me a partire principalmente dalla riforma dei partiti, ovvero sia comunque sul denaro che viene dato ai partiti, quindi comunque parliamo di vitalizi, parliamo di stipendi, cioè ci sono parlamentari che prendono 16-18 mila euro al mese. Io credo che gli italiani abbiano già dato tanto e a questo punto Stefano, che cosa farebbe lei adesso? Cioè, se fosse un deputato o un senatore del Movimento 5 Stelle, la voterebbe una fiducia ad un governo democratico? Come? Sì, assolutamente. Io sì, farei l'accordo con il Partito Democratico, assolutamente, per dare proprio un taglio a queste spese, in modo tale che poi ci si possa presentare alle elezioni dicendo noi l'abbiamo fatto. Però lo farà qualcun altro, solo che se non lo fa il PD lo farà il PDL, e poi il PD ci perderà la faccia. Grazie Stefano. Rino da Trento, buongiorno. Sì, pronto, buongiorno. Sono un attivista del Movimento 5 Stelle di Trento e mi preme dire che il problema, come diceva benissimo ieri Cacciari, una trasmissione televisiva e se il PDS ha la possibilità di poter accettare il programma di Grillo. Io personalmente penso che non ne abbia le possibilità, perché in questo momento nessun partito politico può accettare l'allontanamento dei soldi dalla politica e gli apparati dei quali fanno parte sono molto pesanti, costano troppo e in questo momento non possono, a mio avviso, accettare il programma di Grillo. Di qui però ci va una via d'uscita e Bersani dovrebbe guardare anche all'utilità di questa via d'uscita. Secondo il mio modesto parere Bersani non la scampo, nel senso che se si incaponisce nell'andare alle Camere per chiedere un sostegno senza prendere alcuna strada verso il programma di Grillo, cosa succede? Miseramente questo governo andrà a morire e lui stesso uscirà dalla scena politica, perché dietro abbiamo uno scalpitante Renzi e alla prossima, se si va di nuovo a votare, va da sé che Bersani ha chiuso col panorama politico. E cosa può fare Bersani? Bersani può dare il governo in mano, il pallino in mano a Grillo, nel senso, va bene Grillo, guarda, ci hai rotto le scatole in tutta questa campagna elettorale, che hai il programma, che sei il migliore, tutto quanto, prendi il governo, noi ti diamo l'appoggio e vediamo dove possiamo arrivare. Io penso che in questo modo Bersani da tanto tempo, quindi lei dice potrebbe, Rino, fare qualcosa di buono per l'Italia. Rino, la via d'uscita secondo lei è in carico a Grillo o a qualcuno del Movimento 5 Stelle? Comunque in carico al Movimento 5 Stelle. In carico al Movimento 5 Stelle, ma per una sua propria utilità politica del Bersani stesso, perché Bersani in qualsiasi modo uscirà fuori dalla scena politica. Lui ha già perso queste elezioni e non può fare altro che una resa onorevole. Ancora qualche tweet. Alberto Unia, non lo so, su Twitter, hashtag, ve lo ricordo ancora, 9 in punto, col 9 scritto a lettere, giusto per chiarire, sono un candidato del Movimento 5 Stelle, non possiamo accettare compromessi, ci hanno votati per quello. Massimo ci scrive, Massimo Cervellin, fiducia e legge elettorale e poi quello che si riesce a fare, no al ritorno subito al voto per interessi propri. Ancora ci scrivono, se il Movimento 5 Stelle non dà fiducia, Michele, a vostra, non dà fiducia perché non dovrebbe accettare appoggio, se si dà, perché dovrebbe accettare appoggio se si dà l'incarico al Movimento 5 Stelle? Viola Tesi, e poi ricominciamo con altri ascoltatori all'800240024. Viola Tesi, la stanno attaccando abbastanza duramente anche su Twitter, dicono, ma insomma, ma qua non possiamo misurare su change.org chi sia, no, se ci siano militanti del Movimento 5 Stelle. Ancora, lei chi è davvero? E dicono poi il Partito Pirata, in realtà alle elezioni si è presentato, quindi insomma, come facciamo a sapere che lei ha votato il Movimento 5 Stelle? Prego. Mi sentite? Sì, prego, prego. Il Partito Pirata non si è presentato alle elezioni, assolutamente, quindi che si informi meglio, perché avete visto voi sulla scheda elettorale il simbolo del Partito Pirata, per caso? Io no, personalmente. Quindi, evidentemente non si è presentato. Ha presentato il simbolo, quindi, mi sembrano tutte, sì, come sempre, pretesti per attaccare, ma alla fine mi chiedo, cioè, nel senso, il senso di tutto, cioè, io ho semplicemente espresso mia opinione, non è che voglio destabilizzare il movimento, non miro a niente, carichi, visibilità, non me ne frega assolutamente niente, la mia vita, e sono felice. Quindi, cioè, nel senso, non vedo perché è tutto questo accanimento, cioè, esprimo l'opinione mia e di altre 130.000 persone e basta. Quindi seriamente accettate un dialogo, nel senso, basta monologhi, ne avete fatti anche troppi. Ennio ci chiama da Roma, buongiorno. Buongiorno. Prego. Secondo me il capo del governo, tra virgolette, in modo virtuale, lo dovrebbe fare Napolitano, nel senso che Grillo non può permettersi né, lo dico da elettore del PD che ha votato però Movimento 5 Stelle alla Camera e PD al Senato, nel Lazio. Secondo me Grillo non può andare da Bersani e fare l'accordo con lui, dovrebbe prima andare da Napolitano e dire, senti, io l'accordo con Bersani lo voglio fare, però mi dovete garantire che certe cose verranno fatte. Questi sono i punti, firma qua, tra virgolette, firma qua, e fa in modo che Bersani rispetti questo patto. Te lo dico, se non viene rispettato nessuno di questi punti, si fa qualche boiata, cade il governo. E quindi secondo me l'atteggiamento che sta avendo Grillo è in quella direzione, poi magari mi sbaglio. Sì, insomma, forse si sta facendo anche un po' di tattica da questo lato, non a caso l'ultimo post, notava ieri qualcuno, l'ultimo post non è firmato da Beppe Grillo, ma è firmato da Messora, da un esterno, e quindi è un modo forse anche per lasciarsi le mani libere da questo lato. Insomma, il post firmato ieri da Beppe Grillo in realtà è quello nel quale rende onore a Napolitano per aver rifiutato l'incontro con Steinbrück, quindi un post, una dichiarazione di apertura nei confronti del Presidente della Repubblica, spesso attaccato per molti altri motivi. Sentiamo anche Sante che ci chiama da Milano, buongiorno. Buongiorno a tutti, mi sentite? Sì, prego, prego. Sì, salve, io seguo il Movimento 5 Stelle da un paio d'anni, tendenzialmente ho sempre votato a sinistra. Secondo me dovrebbe esserci un governissimo PD-PDL in modo che almeno sistemassero quelle quattro cose che non hanno mai voluto fare in 20 anni e almeno usciranno di scena. Mi scusi Sante, quindi lei ha votato Movimento 5 Stelle e però dice che secondo lei devono fare l'accordo PD e PDL, il governissimo? Sì, assolutamente. E in modo da sistemare almeno quelle... almeno la legge elettorale, però. Non ho capito, però Sante, mi perdoni, però io non ho capito, lei dà fiducia nelle urne al Movimento 5 Stelle, che è un movimento che nei confronti dei cosiddetti vecchi partiti è molto duro, e però poi dice che è meglio un governo PD-PDL, non, sì, un governo PD-PDL, però mi scusi, chiaramente il Movimento 5 Stelle è lì. Come hanno chiesto, la battuta è quando hanno chiesto ai deputati: ma voi dove vi sederete? Adesso a sinistra, no, dietro a controllare. Cioè è chiaro che a controllare quello che questi signori vorranno fare, dopo andiamo a vedere. Siccome tutti parlano, parlo di coerenza, il Movimento 5 Stelle, almeno io li seguo come dire, un paio d'anni, 2 anni fa dicevano delle cose, l'anno scorso hanno detto le stesse cose, in campagna elettorale hanno detto esattamente le stesse cose e adesso continuano a dire le stesse cose. PD e PDL, se io vado a sentire le registrazioni di questi signori da 5 anni fa, 2 anni fa in campagna elettorale, adesso hanno detto di tutto e di più, quindi la coerenza non mi sembra che sia di quei posti lì, insomma. Per cui secondo me dovrebbero come minimo sistemare un paio di cose questi signori, visto che comunque la maggioranza, è vero che il primo partito alla Camera è il Movimento 5 Stelle, ma la maggioranza mi sembra di capire che l'ha presa il signor Bersani con il PDL, quindi mi sembra di capire che sono loro che devono fare la prima mossa verso il presidente, non Grillo come pretendono di lasciargli il cerino in mano, eccetera. Classici giochi da politica di una volta che secondo me spariranno. Grazie Sante, sentiamo anche Mario che ci chiama da Venezia, buongiorno. Sì, buongiorno. Allora io sono un elettore del PD, così sgombriamo il campo equivoci. Io sempre da anni ormai voto PD. E anche questa volta ho dato fiducia al PD con un po' di mal di pancia, perché io nelle primarie ho votato Renzi, pur stimando al massimo Bersani, ma non lo considero un leader carismatico che possa o che potesse in questa fase raccogliere quel consenso necessario per vincere le elezioni. Purtroppo, forse sono stata una Cassandra, ma ho indovinato, diciamo, l'ho presa tutta. Io credo che Grillo oggi abbia delle responsabilità maggiori e non, al di là delle battute, mi siedo dietro, mi siedo avanti, li mando a casa tutti, bruciamo il Parlamento, può dire quello che vuole, ma al di là delle battute poi c'è la sostanza. E nella sostanza io credo che a Grillo convenga trovare un accordo con Bersani o chiunque si sieda al posto di Bersani per governare su dei punti, stabilire 1, 2, 3, 4, 5 punti. E sicuramente i primi 2 punti dovranno essere nuova legge elettorale e sicuramente l'abbattimento dei costi della politica. Questo è chiaro ed evidente a tutti. Grazie Mario. Bisogna dire da questo lato che naturalmente è un gioco che porta questo risultato elettorale, è un gioco comunque che porta vantaggi al Movimento 5 Stelle. Sia che si faccia un accordo con Bersani sui punti che decide il Movimento 5 Stelle, sia che si faccia un accordo tra PD e PDL per fare il governo, perché gli consente di rimanere fuori e continuare ad attaccare. Ed è comunque, probabilmente, a prescindere da tutto, un gioco in perdita per il Partito Democratico. 9 in punto. Due risposte ad un paio di ascoltatori che mi hanno scritto e ci hanno scritto via Twitter, hashtag 9 in punto. Se volete scrivere a me, sono Simone Spezia, mi trovate. Innanzitutto Antonio, che mi dice: lo si era capito da sempre che eravate di parte, ora state facendo di tutto per convincere i grillini, il Movimento 5 Stelle. Poi ci dice: vergogna, ma che vergogna, ma che tentativi di convincere i grillini. Guardi Antonio, in tutta sincerità, l'unico interesse che potremmo avere è che ci sia un governo, perché un governo ci deve essere, che faccia una serie di cose importanti, poi presumibilmente si tornerà al voto, ma naturalmente non sta a noi deciderlo, sta al capo dello Stato. Non stiamo facendo nulla per convincere i grillini, vogliamo ascoltare la voce di chi ha votato Movimento 5 Stelle. Per questo vi stiamo chiedendo di chiamare e di scriverci, perché il punto ci sembra nodale, è un punto di dibattito essenziale in questo momento, anche se potrà sembrare per certi aspetti tattico. E però è un punto che va chiarito, perché tra una quindicina di giorni, oggi è il 1° marzo, si insedieranno le Camere, inizieranno poi le consultazioni, i tempi sono lunghi purtroppo, e sono veramente lunghi, ma questi sono i tempi istituzionali. Però insomma, bisognerebbe arrivare a quel momento, al momento delle consultazioni, con un minimo di quadro chiaro, anche se vogliamo, per rassicurare i tanto odiati e tanto vituperati mercati, che però poi all'atto pratico, quando si tratta di rendimenti dei titoli di Stato, di spread e di finanziamento dei mutui, tanto per dire, o di finanziamenti, è roba che andiamo a pagare, e quindi su questi temi bisogna ragionare. Voglio sentire Walter da Pesaro, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Io sono un simpatizzante del movimento, ovviamente, no? Dare la fiducia a Bersani presenta dei rischi, ma non darla, secondo me, sarebbe peggio. Un altro governo tecnico sarebbe insopportabile dal popolo. E la proposta del PD, secondo me, è già accettabile e potrebbe essere migliorata. Per esempio, non so, gli alti stipendi di dirigenti statali, che sono doppi addirittura a quelli di Obama, andrebbero ridotti, i problemi dei disoccupati, i problemi dei carcerati, insomma. Poi, per realizzare il tutto ci vuole tempo, non si può pretendere che... E il 5 Stelle non è detto che sopravviva a quel tempo. Ad esempio, sfuggire dalle proprie responsabilità, nel senso che la gente, chi ha votato il 5 Stelle, vuole la soluzione dei problemi oggi, non fra un anno quando ci saranno le prossime elezioni. Quella gente lì, se nel frattempo altri risolvono certi problemi, per esempio il finanziamento pubblico, i costi della politica, quella gente lì non sta lì ad aspettare il Movimento 5 Stelle fra un anno, quelli andranno a votare chi ha risolto questi problemi intanto, perché la gente vuole qualcosa intanto, cioè il sogno va bene, ma intanto cominciamo a assaporare qualcosa. E poi un'ultima considerazione: non è come la Sicilia, lo Stato italiano, non è che si può dare la fiducia su qualcosa, si deve dare una fiducia su delle proposte concrete, migliorabili dal 5 Stelle, e intanto far vedere alla gente che non si è solo sognatori, ma si è anche persone concrete. Grazie Walter. Anna Rita dalla provincia di Forlì, Cesena, buongiorno. Sì. Buongiorno, io ho sempre votato PD e le ultime elezioni, sulla scia un po' della delusione, all'ultimo, il photo finish, ho votato il Movimento 5 Stelle e devo dire che mi trovo delusa, perché se veramente Grillo era uno che voleva cambiare il sistema, adesso ha l'occasione per farlo, perché incominciare a fare i soliti giochini da politico, di chi non vuole prendersi una responsabilità? Cioè, io ho un mutuo, io aspetto il secondo figlio, io ho votato quel voto per cambiare il sistema, per vedere veramente una svolta, non per vedere l'ennesimo pifferaio magico, cos'è, un altro Berlusconi del 94 con mille promesse, poi quando c'è da scendere veramente in campo, da prendere veramente i giochi per cambiare, e non si fa nulla, cioè, c'è il mondo intero che ci sta cambiando, cioè, e ci sta guardando, che vuole delle risposte, che vuole vedere veramente che cosa facciamo, e lui si mette a fare i suoi giochini. Cioè, io lo chiamo alla responsabilità, questo è il mio paese, cioè, questo è il paese che io amo, che io gli ho dato la fiducia, gli ho dato il mio voto, e lui deve fare qualcosa. Grazie, vi aggiungo a questo ragionamento, poi ce ne sono diversi, quello di Paolo Speroni su Twitter: il Movimento 5 Stelle non può stare all'opposizione, ha preso troppi voti e quindi deve fare. Anche questo è un ragionamento, mentre Luca Baldassarri dice sempre su Twitter, hashtag 9 in punto, è più irresponsabile Grillo a insistere sulla linea o Bersani a voler andare da solo, sapendo che così dura pochi mesi. A chi ci accusa di, sempre via Twitter, di fare disinformazione sul Movimento 5 Stelle, per favore chiarite, perché sinceramente non ci sembra. Andate a riascoltare anche le puntate delle ultime settimane, abbiamo trattato il Movimento con la freddezza con la quale si deve trattare qualsiasi forza politica. Nicola ci chiama da Udine, buongiorno. Ah, buongiorno a lei, io chiamo da Udine e sono un iscritto da 2 anni fa al Movimento 5 Stelle e giustamente ho votato per loro perché vorrei che sia il cambiamento e io credo che è il momento giusto proprio per fare il cambiamento, perché siamo il primo partito al Parlamento e con il PD possiamo fare, diciamo, ma non un inciuccio, non chiamatelo come volete, ma un accordo. Va benissimo, Bersani rappresenta la vecchia guardia del PD e va bene, la facciamo fuori perché è giusto anche cambiare, loro c'hanno Renzi, c'hanno gli altri lì, ma basta fare quei punti del programma che ci sono, che c'è la convergenza e così cambiare, diciamo, queste regole, queste cose che ci sono, che ci aspettiamo da anni. Perché se mettiamo caso che ci fanno i giochi governissimi questi, ne perdiamo altro anno, altri 2 anni, ma noi abbiamo bisogno oggi, cambiare tutto oggi e la possibilità c'è, perché basta trovare il punto di convergenza. Vogliamo cambiare i costi di politica, i parlamentari, tutte queste cose qua? Possiamo cambiare, i voti ci sono in Parlamento e la possiamo fare. Grazie Nicola, ma Nicola non so se è ancora in linea, ma non ho capito, quindi lei dice facciamolo sta accordo col PD? No, ma non dico l'accordo, facciamo praticamente che il Movimento 5 Stelle mette un programma, 6 punti, noi possiamo collaborare, ma non a vista, cioè diciamo volta per volta, no, noi vogliamo 5 punti, 10, quel che sono, se il PD rispetta queste e su quella cose base, qua, e su quella, facciamo, e su quella base subito, si vota, no? E su quella base si vota naturalmente la fiducia al governo, perché il problema che naturalmente stiamo sottolineando da giorni è che, a differenza di quello che è successo in Sicilia, a prescindere da tutte le differenze del caso, nel senso che è solamente una regione, Crocetta gode di volta in volta di appoggio anche di parlamentari siciliani di altri schieramenti politici, la differenza è che bisogna votare una fiducia iniziale ad un esecutivo perché un esecutivo sia in carica. Chi ci dice via Twitter, Andrea, ma tutti i propri PD li prendete? No, non li prendiamo tutti i propri PD, quelli che ci stanno telefonando. Dico questo, dato che vedo qualche tweet invece contrario, qualcuno che ci dice ah no, lo statuto del Movimento 5 Stelle è quello, non si fanno alleanze, non c'è storia, bene, chiamateci all'800 24 00 24, io più che leggere i tweet contrari non posso fare. Valerio dalla provincia di Bergamo, buongiorno. Sì, buongiorno a voi. Senta, io volevo solamente dire una cosa semplice, semplicissima, sento tutti parlare deve andare al governo, deve dare la fiducia, deve appoggiare qui e là, però credo che tutti quanti non abbiano ancora capito quello che non avevano capito, il fenomeno Movimento 5 Stelle, cioè non vuole governare, non vuole comandare, vuole cambiare il sistema politico. Questo è. Gli altri chiaramente non vorranno cambiare. Valerio, ho una domanda. Però per cambiare un sistema tocca governare o no? Mi scusi, è questo lo snodo che io non riesco a capire. È una domanda vera, spero che non sembri faziosa, è una domanda vera, non capisco questo. No, assolutamente lecita la domanda, però appunto ci vuole una maggioranza per governare. Ma dovrebbero essere gli altri che a un certo punto accettino dei punti ben precisi, che sono i soliti, che si sentono da anni, che vorrebbero tutti fare, ma nessuno ancora ha fatto. Cambio della legge elettorale, il discorso del conflitto di interessi, il taglio degli stipendi dei parlamentari, le pensioni, quant'altro. Nessuno ha mai fatto, a parole, prima delle elezioni, ma poi nessuno ha mai fatto. Il movimento si è messo certi determinati punti vuole arrivare alla conclusione. Se gli altri ci stanno a conseguire questi punti, bene, altrimenti che si facciano nuove elezioni. E quindi Valerio, brutalmente, un governo guidato dal Movimento 5 Stelle, dice lei? Non è questa l'intenzione a un certo punto, perché se nessuno dà garanzie e fiducia al Movimento 5 Stelle, non è questo che si vuole fare a tutti i costi. Bisogna cambiare il sistema politico. Ribadisco, una fiducia al governo Bersani, una fiducia al governo d'un governo Bersani su quei punti precisi, lei la darebbe oppure no? Assolutamente no, né a Bersani né al PDL, perché hanno confermato che non hanno assolutamente intenzione di cambiare. È quello che volevo sentire, grazie Valerio, è quello che volevo sentire, perché è quello di cui stiamo discutendo, è quello su cui stiamo raccogliendo le vostre voci. Pasquale dalla provincia di Salerno, buongiorno. Sì, buongiorno. Niente, l'ascoltatore di prima mi ha preceduto, insomma, su quello che volevo dire. Praticamente io sono contrario al fatto che lui debba dare la fiducia per forza a Bersani, perché lui non ha portato avanti battaglie politiche, parlo di Grillo, lui praticamente ha portato semplicemente dei punti per cambiare la classe politica, diciamo, che c'era, e fino a qualche giorno fa sia Bersani sia PDL lo avevano completamente, diciamo, quasi snobbato. Poi se Bersani veramente voleva fare tutte le cose che adesso si stanno riempendo la bocca di fare, tagli ai costi della politica, tagli, praticamente ha rinnegato anche Renzi, che Renzi portava avanti più o meno le stesse. Pasquale, ci indichi secondo lei in 10 secondi una via d'uscita, allora, se non si vota se il Movimento 5 Stelle non deve votare una fiducia a Bersani, che cosa deve fare in questo momento? Suo governo, un governo a guida Movimento 5 Stelle. Grazie Pasquale, sentiamo Alfonso che ci chiama da Salerno, buongiorno. Salve, buongiorno. Io ho votato 5 Stelle, ho 42 anni, dopo aver votato sempre al centro-sinistra, ma sono arrivato a questa conclusione perché ho capito che bisognava dare un chiaro segnale anche alla mia parte politica. Probabilmente avrei votato Renzi se ci fosse stato Renzi, ma non posso più accettare, come me tanti, non possiamo più accettare di essere governati, che la nostra parte politica soprattutto, il centro-sinistra, sia governato dallo stesso gruppo dirigente che ne ha combinate di tutti i colori in questi anni, sia direttamente sia indirettamente, in qualche modo appoggiando Berlusconi e permettendo a Berlusconi di restare lì per 20 anni. Non hanno capito che noi vediamo con il fumo negli occhi i vari D'Alema, Bersani, Rosi Bindi, e abbiamo bisogno di qualcosa di nuovo, e lo abbiamo trovato nel Movimento 5 Stelle perché il nostro partito non ce l'ha dato. Questa è la realtà. E quindi ora? Quindi ora sono sostanzialmente d'accordo con la cosa che ha detto l'ascoltatore che ha parlato prima di me. Il vero vincitore di queste elezioni è il Movimento 5 Stelle. È chiaro che dal punto di vista dei numeri la maggioranza alla Camera c'è la Bersani e lui ha il pallino in mano dal punto di vista costituzionale, ma dal punto di vista morale è Grillo che ha vinto le elezioni. È il Movimento 5 Stelle che deve provare a fare il governo. È questa la novità che devono avere il coraggio di mettere in campo il PD e volendo anche il PDL. 9 in punto. Leggiamo anche qualche tweet. Marcello dice: Renzi è l'unica soluzione per il governo. Luca, hashtag ve lo ricordo ancora, 9 in punto, col 9 scritto a lettere. Non si possono buttare nel cesso milioni di voti di delusi ex PD per governare col PD. Sarebbe una bestemmia per il Movimento 5 Stelle. Non male come ragionamento, insomma, divertente, ecco, mettiamola così. Christian, io proporrei fiducia a Bersani sul programma fatto dal Movimento 5 Stelle, e cioè fiducia al Movimento 5 Stelle sul proprio programma. Alessandro invece, Alessandro Parigi, critico, primo caso di elettori che votano un partito ma non vogliono che governi, vogliono mani libere per attaccare il partito di turno. C'è anche naturalmente chi sospetta questo. Paolo ci chiama da Roma, buongiorno. Sì, buongiorno. Io sono un attivista del Movimento 5 Stelle del secondo municipio di Roma già da un paio d'anni e non sono tra i più, diciamo, ferventi. Beh, io ho visto una crescita esponenziale di adesioni da parte delle persone. All'inizio eravamo 6 persone, 5 persone, poi ormai siamo 10 volte tanto, siamo. E dover, secondo me, scendere a compromessi con Bersani è quanto di più sbagliato, se non altro per come siamo stati guardati e trattati in precedenza, quando eravamo veramente pochi, ma molto, molto pochi. Conosco anche dei liberi professionisti che hanno esposto la propria posizione politica, ossia il Movimento 5 Stelle, e hanno perso i clienti, e hanno perso, cioè parliamo di veramente di una sorta di, ecco, di aver visto, ecco, le persone in maniera proprio negativa. Oltretutto il nostro programma, anzi il programma Movimento 5 Stelle è un programma molto lineare, e peraltro insistere molto sulla coerenza che è stato portato avanti da molto tempo e che ha dei punti cardine basilari importantissimi, a cominciare Paolo, della politica. Paolo, il punto è chiaro. Quello che voglio capire io, quello che non mi è chiaro, è che soluzione vede lei? Vede un governo... Io mi assumerei totalmente la responsabilità di governare, nel senso... Grillo Premier? O uno dei vostri, diciamo così, uno del movimento, uno dei deputati. Per noi uno vale uno, è un portavoce, quindi non faccio distinzione di faccia, neanche di nome. L'importante è avere preparazione tecnica, cosa che fino ad oggi è sempre mancata, c'è soltanto stata preparazione diplomatica. E abbiamo visto dove si arriva, insomma, con la diplomazia. Grazie Paolo, sentiamo sempre da Roma anche Claudio. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Io sarò sintetico. Per quanto mi riguarda, se da queste elezioni non uscirà almeno una legge elettorale nuova, tutti i partiti, comprese anche il Movimento, saranno poco credibili, perché chi ci aspettiamo che faccia la legge elettorale nuova per sbloccare questo tipo di politica italiana? Quindi cosa bisogna fare? Solo un accordo per la legge elettorale, un governo guida chissà? Io penso che la cosa fondamentale, ripeto, sia la legge elettorale. Sì, però prima bisogna fare un governo, Claudio, e quindi, insomma, secondo lei chi lo dovrebbe guidare? Guardi, io questo non glielo so dire, però penso che l'elemento di novità del movimento, se a questo punto non arriva a questa situazione attuale, non alle situazioni passate, parliamo del presente, a dare quel minimo di svolta che loro hanno chiesto, si è chiesto in generale per molto tempo. Io penso che tutti i partiti, compreso anche il Movimento 5 Stelle, avrà dei problemi con i loro elettori. Grazie Claudio. Diego dalla provincia di Firenze, buongiorno. Buongiorno, sì, dunque io mi domando, no, tutti questi dubbi che ci vengono posti, dove sono? Non ci sono. Ragazzi, il Movimento 5 Stelle è dove è, perché ha avuto per sempre, da quando è nato, una linea, niente inciuci, che ci facessero il governissimo PD e PDL e una bella legge, e riuscissero a fare la legge elettorale maggioritaria, levassero questa forcata di Porcellum. Così alle prossime votazioni vinceremo alla stragrande, magari con doppio turno alla francese. Perfetto, quindi ne fa, Diego, mi sembra di capire che ne fa una questione di tattica anche lei, di tattica elettorale. Quindi facciano un governissimo PD e PDL, riformino la legge elettorale per fatti loro, poi arriviamo noi e prendiamo il 40%, più o meno questo è il concetto. Se andiamo al doppio turno alla francese anche di più, sicuramente. Ah. Gabriele ci chiama da Livorno, buongiorno. Sì, buongiorno. Io a sentire anche quest'ultimo ascoltatore rimango basito, nel senso che Grillo probabilmente non ha paura di sporcarsi le mani, perché come tutti i movimenti di protesta poi secondo me farà la fine della Lega, appena arriva a Roma dovranno comunque scendere a compromessi. Secondo me dopo un anno di governo il Movimento 5 Stelle perderebbe consensi, perché è facile fare puri e duri e vergini quando non hanno fatto niente. Poi quelli che vogliono Grillo come premier mi viene un po' da ridere, nel senso, hanno fatto sempre la lotta sulla pulizia della politica, uno condannato per omicidio colposo premier della Repubblica Italiana, boh, mi sembra un po' ridicolo, mi sembra, però forse le regole valgono soltanto per loro, non lo so. Quindi lei non ha votato 5 Stelle, naturalmente? No, assolutamente, okay, perché ripeto, okay, sì. loro parlano. No, giusto per chiarire, perché stiamo cercando di raccogliere invece le voci di chi il Movimento 5 Stelle l'ha votato, ci chiede Marco Fioravanti, ma perché tutta questa responsabilità la richiedete solo al Movimento 5 Stelle? No, guardi, non la richiediamo, o meglio, io più che altro gli ascoltatori che hanno chiamato solo al Movimento 5 Stelle, la si richiede a tutti, posto che il Movimento 5 Stelle è il primo partito alla Camera, quindi insomma un po' di responsabilità a un certo punto se la dovrà prendere. Non so in che chiave è, attenzione, non sto dando una valutazione di quello che dovrebbe fare, è che un partito che è insomma, appunto il primo partito alla Camera, il secondo partito al Senato, primo partito in molte regioni, qualche responsabilità tutto sommato se la deve prendere. Alberto ci chiama da Genova, buongiorno. Sì, buongiorno a lei e a tutti quanti gli ascoltatori. Io sono una persona di area di centrodestra che è stato iscritto anche, nonché eletto anche se a livello più basso delle istituzioni, quindi parliamo di consigli di zona. Io ho votato Movimento 5 Stelle alle ultime elezioni e mi sembra di interpretare bene quello che l'atteggiamento che sta avendo Beppe Grillo in questo senso. Noi loro li abbiamo mandati lì non per fare un governo, noi li abbiamo mandati lì perché non ci fidiamo di quelli che comunque sarebbero entrati nelle file dei partiti tradizionali. Quindi loro hanno una funzione propulsiva, cioè di costringere questi personaggi che ormai ci hanno stancato a fare cose realmente utili, e secondo a controllare che le facciano. Negli ultime ore sono apparse anche qua sulla stampa locale a Genova delle notizie sul fatto che non ci saranno più fiori, che non ci sarà più la corsia preferenziale per i deputati e per i senatori alle poste all'interno del Parlamento, cioè queste sono tutte piccole cose che fanno capire a noi che il voto è comunque E quindi cosa ci vuole? Che governo ci vuole? Un governo a guida Movimento 5 Stelle, dice lei? No, io penso che sia giusto che la responsabilità del governo se la assuma qualcun altro, non so se l'onorevole Bersani abbia l'autorevolezza in questo momento, visto l'esito delle elezioni, per formare un governo. Il vero ruolo del 5 Stelle è propulsivo e di controllo. Noi siamo tranquilli se questa gente fa le pulci a quelli che ci sono e li fa rigare dritti. Grazie Alberto, anche se non ho capito esattamente se vuole un che tipo di governo immagino un PD, PDL, ma adesso dobbiamo chiudere. Grazie a Viola Tesi, che in realtà abbiamo lasciato in attesa fino adesso. Grazie, buona giornata. Grazie a voi. La petizione è su change.org, date la fiducia al governo Bersani, chiede Viola Tesi agli esponenti del Movimento 5 Stelle. Ce n'è anche un'altra che dice: non possiamo dare fiducia a un governo Bersani, su change.org. Grazie ad Alessandro Marcotulli, preziosissimo, in redazione, Franco Piantanini in assistenza, Filippo Aureggi in regia, e le ragazze del Centralino, oggi straordinarie. Ci sentiamo lunedì. Radio 24. La passione si sente.